adesso. Dunque, il titolo per Malvi, rifugi in Alto Adige, 165 escursioni, eccetera. Una guida escursionistica, io direi che assolutamente riduttivo e limitativo voler chiamare questo qui una guida escursionistica, anche perché non so quanto pesa e sarebbe un po'... 600 grammi, sembra di più, no. E sarebbe un po' pesante portarselo appresso. Allora, è veramente molto di più, è un libro sull'Alto Adige da un nuovo punto di vista, l'ha chiamato anche una rivista tedesca, la rivista Panorama, pubblicato del Deutsche Alpenverein. E qualcun altro ha detto che questa qui è quasi una pietra miliare dalla quale bisognerà partire, alla quale bisognerà guardare per future pubblicazioni di escursioni, eccetera. Allora, la persona che prende in mano un libro difficilmente si rende conto delle difficoltà, delle ricerche che stanno, le fatiche che stanno dietro alla realizzazione di questo libro. Delle fatiche fisiche magari dirà qualche cosa l'autore. Io vorrei dare un accenno, sottolineare proprio le fatiche intellettuali che l'autore ha dovuto compiere per mettere insieme questo testo, cioè a parte il fatto che ha dato delle descrizioni dettagliatissime, proprio con pazienza certosina, io sinceramente non so come abbia fatto, perché uno per dare indicazioni così precise dovrebbe percorrere un itinerario 3, 4, 5 volte. Io, in alcuni casi sì. Però oltre a queste descrizioni e a delle bellissime foto, che dopo vedrete anche credo nel DVD, ci sono molte ricerche sulla storia dell'Alto Adige, sull'arte, sulla etnografia, sulla cultura in genere. E per esempio sono anche su aspetti in parte molto poco noti. Renzo Caramaschi parla per esempio delle streghe, racconta delle streghe, della Barbara Pachler in Val Serentina, e dei stregoni, e un Matthias Pfeiffer Huisele di Racines. Di Flading, sì. Poi parla racconta la storia di eroi, di quelli conosciuti a tutti, glorificato da tutti come Andreas Hofer, ma racconta anche la storia di eroi che sono quasi dimenticati o perlomeno mal conosciuti o poco conosciuti, come Michael Geismar, che è una delle sue passioni su cui ha fatto un trattato veramente approfondito e lunghissimo, che già quello meritava una piccola pubblicazione. Poi per esempio parla di centinaia di ebrei che sono stati nel dopoguerra salvati facendoli passare attraverso il Krimler Tauernjoch sopra Predoi, facendoli passare clandestinamente. Racconta degli Hutteriti, di Anabattisti, che sono nati nel 500 in Pusteria e poi sono sempre stati perseguitati finché non hanno trovato la via delle Americhe. Racconta dei luterani, dei protestanti in Valle Aurina che si sono tenacemente resistito, pur essendo, se non diffidati, ma perlomeno erano mal sopportati dal governo inglese. Poi ci sarebbero tanti altri fatti storici, di arte, di cultura. E bisogna dire che quando Renzo Caramaschi parla di questi fatti si capisce da quale parte sta lui, cioè lui non si mette mai dalla parte dei dominatori, di quelli che opprimono, ma si mette sempre dalla parte degli oppressi, degli sfruttati, dei contadini, dei minatori sfruttati, dei poveri. mai della parte del potere stabilito, almeno nel passato. E poi del presente rappresenta lui il potere stabilito, no. Perciò non poteva. E poi c'è un interessantissimo, tutto un capitolo dedicato anche alla musica, che è poi un'altra passione di Renzo Caramaschi, alla musica ispirata alla montagna, da Beethoven a Schubert, da Meyerbeer a Richard Strauss, da Brahms, Wagner e naturalmente a Gustav Mahler, che ha passato tante vacanze qui in Alto Adige. Dunque un libro non limitato alle escursioni, ma molto completo, che sicuramente anche chi conosce bene l'Alto Adige ha ancora tante cose da raccontare, oltre a dare appunto spunti per escursioni meravigliose. E un libro da leggere dall'inizio alla fine. Ecco. Adesso passo la parola. Io ringrazio per le cortesi parole e della bontà della traduttrice di questo volume, la signora Wolftraut, ogni tanto mi sbaglio, la chiamo Waltraut, perché qua nel cellulare l'ha disegnata come Waltraut, ed è stata buona, è vero che ci ho messo passione ed era quasi una necessità di andare in montagna per stemperare poi l'altra tensione che accumulavo durante la settimana. Prima di farvi vedere le foto, è preciso che non è un libro di foto, ma un libro con foto. Alcune sono venute bene, altre meno bene, ma dovevano indicare il percorso, quindi il lettore, colui che legge il percorso, quando arriverà lì deve ricordarsi, memorizzare, quindi è anche uno scopo propedeutico alla preparazione del percorso. Devo dire che ci ho messo passione, ho fatto molti più chilometri dei 2300 descritti, però andare in giro con il taccuino, poi una volta nevica, una volta piove, una volta è umido, la penna Biroc non funziona, allora ho imparato ad andare con la matita, che quella funziona sempre, no? La penna Biroc, poi avevo provato il registratorino, quello poi era finito, non funzionava, insomma la penna e il taccuino sono sempre state, quindi mi sono attaccato un po' ai microcosmi. Ora, siccome in genere sono abbastanza così, parlo eccessivamente, io avrei pensato per 18 minuti di farvi vedere un estratto di queste foto, e devo dire che il sottofondo l'ho fatto in un DVD fatto in moto artigianale, per propensione mia, appassionato di musica classica, mi sarebbe piaciuto mettere l'Alpen Symphony di Richard Strauss, però pensavo di rovinare la musica con le mie foto. Allora sono andato su una musica naturalistica, ho rispetto di questi grandi che descrivono la natura, la interpretano e sanno esprimerla, e quindi per 18 minuti così c'è la possibilità di vedere un attimo un condensato delle foto, dei percorsi che riguardano tutto l'Alto Adige, e poi volentieri mi intrattengo con voi spiegando altre cose, quindi se vuol far partire, anche se non le vedete grandi perché è il televisore, però credo che sia sufficientemente chiaro. 4/3, ecco, sì, giusto così. Io mi metto a guardare qua. Si alza un po' il volume. Sì. Thank you. Thank you. Thank you. questa è l'ultima. Avete capito che abbiamo la fortuna di vivere in una terra stupenda, al di là delle foto, questo è solo un estratto, e avete capito anche la mia passione per il cane, perché ho dedicato questo libro alla Vicky, che mi ha accompagnato in tutte queste escursioni. Purtroppo 3 anni fa è morta, e quindi devo dire che per 3-4 mesi sono andato in crisi forte, perché andando sempre tutti i sabati e le domeniche con il cane, già il venerdì sera quando preparavo lo zaino, quella si emozionava e dormiva intorno, si accucciava vicino allo zaino, quindi si crea un legame. E devo dire che avendo fatto tutte queste escursioni con il cane, sia un po' la misura di quello che è il decadimento dell'uomo, in modo accelerato nel cane, perché all'inizio quando era cucciolo, aveva già un anno, io l'ho presa piccolissima, ma ho cominciato a portarla sì, quando aveva 8 mesi, io ero più giovane di 15 anni e camminavo, però lei andava molto più veloce e non sapevo come reagiva, attenzione, scappa via, le bestie, voilà. Quindi lei andava avanti e io quasi correvo, andavo a strappi, poi ogni tanto vedevo questa testa bianca, bianchissima, una samoiedo di mamma russa e papà americano, quindi di puro pedigree. E però ho visto in lei quello che succede nell'uomo, quindi a metà, alla fine, gli ultimi anni, e mi ricordo che io, malgrado fossi invecchiato, ero davanti sempre rispetto a lei, le dicevo dai Vicky, andiamo che qua si fa notte, e quella proprio aveva i suoi ritmi. Ed è infatti così una cosa che non che mi commuova, però mi prende il fatto che anche adesso quando vado in montagna sento questa mancanza, e mi chiedono sempre perché non prendi il nuovo cane, perché mi è rimasta così impressa, a parte che non ho più l'età per stargli dietro a un cucciolo o un cane di 1 anno, 2 anni, 3 anni, fino ai 7-8 anni questi camminano, lei è morta che ne aveva 13 e mezzo, e quindi non ce la farei ipotizzare che io sia nelle condizioni di fare quello che ho fatto ancora per 10 anni, supposto che io riesca a vivere ancora 10 anni, però è così, sta nella presunzione umana, e sono così presuntuoso che io continuo ad andare a cercare nuove valli, vado sempre in cerca, e poi dirò 2 cose sulla stupidità umana, di cui io sono un rappresentante, di cose sempre più difficili. Perché? Perché andando avanti con l'età devo dimostrare a me stesso che non è vero, e allora non faccio più quelle cose, ci sono quote elevate, c'è il Similaun, c'è il Cevedale, ci sono cime da 3300, 3400, 3500, insomma. Poi avete visto molte foto con la neve, attenzione, nel libro sono indicati i periodi giusti, poi quello che faccio io in primavera, in marzo, in aprile, in maggio, quelle foto con la neve sono fatte in marzo, aprile, maggio, lì c'è più pericolo, bisogna stare attenti, bisogna andare con le racchette, si fa una fatica allucinante, è molto più pesante il camminare, però dicevo, sono non alla ricerca, voglio, è un rifiuto dell'invecchiamento, è questa la realtà. E quindi mi dico, ah, vado là su quella cresta, cosa che non ho fatto magari lì, ho trovato delle nuove zone abbastanza, magari senza sentiero, dove bisogna stare attenti, e adesso ho cominciato a fare così una valle che non vi dico, dopo vi faccio vedere le ultime 3 foto che ho fatto sabato e domenica scorse, perché mi sono messo in testa di fare cose che facevano i contrabbandieri quando avevano 20 anni, e capisco che è una presunzione mia, ma solo perché ho rifiuto, non del diventare anziano, ma rifiuto e devo dimostrare a me stesso che sono capace di farlo, perché non è vero che sono passati 15 anni, ma sono esattamente quello che ero 15 anni fa, e non è niente vero, perché mi accorgo che andando su, l'ultima volta, e adesso è già 3 volte che vado in quel posto, man mano che si eleva il confine delle nevi, io vado sempre più in su, però sento la fatica, sudavo allora, ma andavo molto più veloce, adesso proprio sento la fatica, tant'è che mi faccio una prova di tenuta del cuore sotto sforzo, perché non vorrei esplodere, ma insomma mi hanno detto che più o meno, è che mi fermo di più, non mangio, bevo molto, però vedo che sono più lento. Adesso sono rientrato, questo lo dico un po' con orgoglio, nelle tabelle normali dei 300 metri un'ora. Una volta andavo a strappi, andavo molto veloce perché c'era la Vicky che tirava su, dovevo tenerla sotto controllo. E quindi c'è una componente così di presunzione, di dimostrazione a me stesso che il tempo non passa. Le montagne sono lì sempre stupende e io le vedo sempre più belle e le vedrò sempre più belle nella misura in cui non sarò in grado di raggiungerle come una volta. L'altro aspetto del libro che mi dicono ma che fatica ha fatto, i percorsi è vero, ci sono le foto, poi c'è il giorno che piove, che nevica, però quegli arcobaleni che avete visto in due foto, una sul lago di Vernago e l'altra alla spina del Lupo su al passo del Brenno, andavo anche con l'acqua, poi si ha la fortuna che si apre un attimo un raggio di sole e bisogna coglierla, se stavo a casa andavo sempre, che nevicasse in primavera, autunno, inverno. E quindi è proprio una passione, ma la fatica vera non è stato fare le escursioni o prendere gli appunti o fare le foto, è stato scrivere. Io non è così semplice, io che lavoravo tutta la settimana, adesso sono per fortuna in pensione, in un ente pubblico abbiamo un linguaggio molto burocratico, ex legis, l'articolo, il riferimento, il combinato del disposto della norma col decreto, eccetera, in riferimento alla sua, con l'oggetto. Quindi ho fatto fatica, finché prendevo gli appunti, alla sera quando arrivavo li scrivevo immediatamente, poi chiaramente scrivevo dalle 9 di sera fino a mezzanotte quando mi veniva all'estero, ma prima di incominciare a scrivere dovevo leggermi un po' di scrittori veri, perché anche se è la descrizione di un percorso, anche se in qualche momento parlo di sentimenti, di emozioni, però è difficile esprimerli. E lì, quando uno si mette a scrivere, capisce quanto è piccolo rispetto ai veri scrittori. Allora dovevo leggermi Hemingway, che è sintetico. Quando poi leggo Eri De Luca, anche l'ultimo libretto, mi ammazza. Cioè, quando uno legge quelle, o Rigoni Stern, che parla di montagna, uno legge e dico, vabbè, chiuso, non mi metto neanche a scrivere, perché, ma però, siccome è una guida, allora cercavo di fare queste letture per così togliere la ruggine dagli ingranaggi del linguaggio, dai meccanismi del linguaggio a cui ero abituato per configurazione, per dovere amministrativo e lavoro che facevo, e riuscire a togliere queste incrostazioni mentali, che è estremamente difficile. Quindi lì è stato il vero sforzo. Poi quando l'editore mi ha detto, perché io non sapevo, questo era pronto già nel 2008, il distributore del primo volume, che lo distribuiva in Italia, nel Veneto, era entusiasta e gli ha detto all'editore, parlando, credo che sia andata così, cercava una guida da pubblicare perché gli mancava, dice prova, e allora mi è arrivata la telefonata e quindi ci siamo messi d'accordo. Questo l'ho fatto per puro hobby, può venderne 1 milione, io spero che ne venda 1 milione di copie, a me non mi viene niente, ma è proprio per, sono contento per la Vicky e per un libro che spero possa invogliare la gente ad andare di più in montagna. Apro una piccola parentesi, quando vedo i giovani, leggo di giovani che si ubriacano, spaccano le bottiglie in Piazza delle Erbe, e dico, è possibile che non abbiano voglia, vadano a letto alle 11, si alzano alle 5 e mezza della mattina, vanno su, si sfogano, e quello che noto in montagna, e qui vedo anche che ci sono più donne, vedo molte più ragazze di giovani, i maschi non li vedo, vedo gruppi di giovani dai 20 ai 26 anni che camminano e sono intelligenti perché si preservano, si abituano, e l'ubriacarsi, il fumare, io fumo, quindi su questo aspetto subito metto censura, però adesso ho dimezzato, e mi sembra una cosa altamente stupida. Siccome viviamo in una terra stupenda, penso che il conoscere tutte queste grandezze che questa terra ci offre sia una cosa intelligente, non solo andare all'Alpi di Siusi a Seara o Oberhagen o conoscere le località sciistiche più note, ma andare proprio d'estate a cercare le vallette, e ci sono occasioni fondamentali, e conoscendo questa terra si conoscono anche e si cambia anche il giudizio sulle popolazioni locali. Devo dire che io ho un'ammirazione per i contadini di montagna, i Bergbauer, perché noi la facciamo, sì, hanno l'agevolazione, hanno il contributo per il telefono, per l'energia, guardate che vivere lassù si fa fatica, perché io vado su, faccio fatica, mi diverto, guardo il panorama, ma stare lassù, vivere, tagliare i prati su quei pendii che ogni tanto qualcuno muore e ci lascia le penne, è veramente un atto di fiducia e di attaccamento alla propria terra. E la ricchezza che questi contadini danno al mantenimento del paesaggio credo che sia incommensurabile. E spero proprio che l'Unione Europea abbia quel rispetto per le produzioni di montagna, la cui produttività evidentemente non può essere quella del fondovalle, che gli possa dare quel piccolo contributo che riesca a mantenere l'insediamento umano nelle alte quote, perché la presenza dell'uomo mantiene il paesaggio veramente in modo idilliaco. Quando si va in alto si vedono questi prati verdissimi, no? Che sono così naturalmente verdissimi, è tutto naturale, ma concibati, lavorati, tagliati, e si fa fatica. Io una volta ho fatto un giorno di volontario in Val d'Ultimo per tagliare il fieno, e io ero morto per 2 giorni, non mi muovevo da letto, non sarò stato allenato a quei movimenti, però questi si alzano d'estate, si alzano la mattina alle 5 e finiscono la sera tardi, e quindi è la qualità del prodotto di montagna è diverso, il latte prodotto, il formaggio prodotto è tutt'altro di quello prodotto in Valpadana con quelle stalle da 500 bovini che ci sono, per cui quando si vede qui sull'autostrada del Brennero quei camion che trasportano latte, questo bisogna avere rispetto quindi. E conoscendo la fatica di questi uomini si ha rispetto anche per le loro tradizioni e si capisce molto di più per quello che hanno fatto, e spero che i giovani locali abbiano la forza e la voglia di stare su in certi masi, perché dice che fortuna, che panorama stupendo, ma quelli ormai sono talmente immersi e lo apprezzano, lo vivono, è un attaccamento alla terra, ma fanno una fatica che l'escursionista la vede il sabato, la domenica, apprezza la bellezza del paesaggio, ma però bisogna entrare a capire anche la mentalità, lo sforzo che fa questa gente di montagna. Altro è, come dicevo prima, che mi sono messo in testa, io quindi ho già preparato, io ho guardato un po' quello che non è che abbia trovato molto di più per integrare questa guida, qui devo essere sincero, vado in cerca proprio delle cose anche senza numerazioni di sentiero, che normalmente dico sempre: state attenti, fate i percorsi, seguite il sentiero, non uscite, estremamente prudenti, perché certe volte è rischioso, non come passare Corso Italia, però bisogna mettere l'attenzione, si rischia di più qua in città con le macchine che non su montagna, se si ha la prudenza. Adesso cerco di trovare così nuovi stimoli, uno perché sono stupido e voglio dimostrare a me che non sono cambiato dopo 15 anni, come dicevo prima, l'altro perché mi interessa scoprire delle storie, quindi adesso ho trovato un contrabbandiere che ha 83 anni, che quando aveva 20 anni o partiva alle 3 di notte e col pieno di luna d'inverno e passava una catena, non ve lo dico perché dopo vi faccio vedere le foto, passava una catena per arrivare alle 5 del pomeriggio del dopo, poi andava a Innsbruck, prendeva le sigarette e poi tornava su sulle spalle, quindi non so che danno erariale facesse, perché alla fine è stato travolto da una valanga, è morto quello che era con lui, ha dovuto subire un processo, il guadagno mi ha raccontato di 2 anni di contrabbando di sigarette che gli ha spesi in avvocati, e quindi, ed è fresco ancora come una rosa. Allora adesso mi sono messo in testa di fare quello che lui faceva a 20 anni, non credo di farcela, perché la montagna ha questo di bello che è sempre lì vicinissima, è sempre lì vicinissima, però non arriva mai, e si va, e la cosa che, ecco, questo mi piace dire, che la passione per andare su mi incuriosisce, voglio vedere, quindi è con gioia che vado su, salgo. Quando torno giù diventavo un po' triste, vado molto piano perché non vorrei mai tornare giù. Poi, gli ultimi tempi, prima di andare in pensione, l'idea che lunedì dovessi tornare in ufficio, mi sarei piantato la tenda lassù, proprio, e ho detto è giunto il momento di andare in pensione e forse è giunto il momento di provare qualcosa non di più rischioso, ma insomma di più impegnativo, sempre per dimostrare che non sono cambiato, mentre invece lo sento nelle ginocchia, lo sento nella velocità, lo sento nell'ansimare, lo sento nel sudare, insomma la velocità non c'è niente da fare, la natura ha un suo percorso, che si accetti o non si accetti, quella va avanti, cammina lo stesso, a prescindere da noi, dalla nostra testa, però devo dire che la si capisce meglio immersi in quell'ambiente naturale, perché lì i ritmi della natura, quando si vede il volo di un'aquila, si vede il camoscio di cui ho invidia perché in 5 minuti vanno su quello che io ci metto un'ora e mezza, e si capisce che i ritmi, e quindi si accetta molto di più. L'idea mia, per esempio, adesso parlo, ma non... L'idea di dover morire in ospedale pieno di canette, di attaccato a macchina, non è che mi rende entusiasmante. Se potessi sapere che proprio non sono destinato, che da lì a poco devo morire, vorrei morire lassù, senza nessuno, senza canette, immerso nella natura. Allora diventa molto più naturale, la si accetta, a prescindere che anche se non si accetta arriva lo stesso. Woody Allen ha detto com'è il suo rapporto con la morte, non sono d'accordo, però, però arriva lo stesso. Però là in queste montagne così selvagge, così belle, dove vedendo le marmotte, vedendo le aquile, vedendo i camosci, vedendo i falchi, si capisce che il ritmo della natura è inevitabile, è qualcosa di magnifico. Allora lo si accetta di più perché noi facciamo parte di questo. Qui, in mezzo all'inquinamento, al traffico, a quest'umanità convulsa, che corre, e poi dopo è molto meno accettabile. Quindi spero che quello che io spero che l'editore riesca a venderle, perché nel frattempo mi sono messo in testa che magari fa un'altra edizione, magari divisa in due volumi, perché originariamente doveva farla in due volumi, ma costava troppo rilegarla. In effetti ha fatto uno sforzo non da poco, e io mettevo dentro foto, lui mi diceva no, e l'anno scorso prima di uscire gli ho detto ma avrei fatto un giro che mi piacerebbe mettere, no per favore, perché non ce la fa finanziariamente, quindi gli auguro il meritato successo, che possa rientrare del capitale che ha investito, anche se ha avuto qualche contributo, però il rischio è grande, che vada esaurito in modo tale che io possa aggiungere questi percorsi. Quindi io sono disponibile a rispondere alle domande, spero di essere stato conciso, di non avervi annoiato, se avete da fare domande mi volentieri. Beh, hai detto che ci sono delle altre foto particolari. Sì, sono solo 5. Ecco, io volevo dire una cosa, ma No, ma volevo dire una cosa, che chi indovina il posto, io le regalo il libro, però posso dire, ho la presunzione di pensare che nessuno di voi ne indovina. Questo era fatto sabato e domenica. Ecco, dico anche una cosa, che quando vado sul computer e vedo il livello della quota della neve, lo mettono a 2550-2600, ma sono tutte, guardate che lì dove sono arrivato, vedete le foto, sono 2100, e ci sono dei canaloni dove io devo andare su quest'estate, che poi il tempo è corto, perché voglio fare nuovi percorsi. Ecco, qui siamo a 1980, io dovrei passare su quella cresta su in cima, vedete? Però prima di agosto non sarà. Si gira? Ah, ecco. Chi è che ha detto Valaurina? Però mi deve dire la Valle, No? Questa macchia è la neve che veniva portata dal vento, che mi portava i picchetti di neve. Le nuvole sono nuvole di vento. Ecco, qui è 2002, non di più. E là c'è il passaggio dove bisogna andare su, ma la cima di là non si vede, è coperta dalle nuvole. Ecco, queste sono le ultime foto fatte sabato e domenica, e lì dovrò tornare ancora una, due, tre, quattro volte. Però lì... Senza bricolla. Senza? Bricolla, cioè i contrabbandieri portavano... No, lo zaino mi è più solo acqua e qualche albicocca secca, mangio quelle. Però mi accompagneranno, siccome poi ho parlato con qualcuno, sì, c'ha ragione, della Valle Aurina, ma se non mi dice la valle, non... è una valle della Valle Aurina che dà sulla cresta di confine. Allora verrà il capo del soccorso alpino di Campo Turas, che è un giovane di 40 anni, che ha i polpacci che sono grossi come la mia coscia e c'ha 40 anni. Poi c'è un altro, il presidente dell'Alpenverein di Campotures, che adesso siccome non la conoscono e non c'è il sentiero, tutti sono entusiasti, ma io non tanto, perché andrò in crisi, cioè non riesco a tenere il ritmo di questi. Sono contento da una parte se avranno la bontà di aspettarmi e così, siccome fino a un certo punto c'è il sentiero, dopo proprio bisogna usarlo, trovarlo, e quindi adesso mi sono preso un aggeggino col GPS, perché se per caso farò il percorso, l'ho già sperimentato, segna esattamente le quote, il percorso che viene fatto, perché sì, memorizzo sulla carta topografica, ma è meglio avere il GPS che riporta sulla cartina, quindi per essere sicuri e dare indicazioni precise, con tutte le avvertenze che sono a rischio e pericolo di chi le fa, e con la responsabilità, io avverto, sono estremamente prudente, perché la passione è una cosa, però non bisogna farsi prendere dalla demenza senile, quindi voler mettersi in testa di far cose che non sono più adatte. Io vi ringrazio, però se avete domande ben volentieri vi rispondo, e se no... Il libro è anche in vendita qui, l'italiano. Il dovere dell'editore, giustamente. Sono rimasto nei tempi giusti? Bravissimo. Sì, bravissimo. Bene. Bellissima studio, oltretutto, una poesia... Vederli così grandi sono ancora diversi del libro. Ecco una cosa, quando io vado su si mettono a ridere quei pochi che mi incontrano, perché questi posti qua finora non ho incontrato nessuno. Il Malgaro che andava su ad aprire, e siccome parlo, ecco questo, si parla un tedesco ostrogoto, il mio tedesco non è. E mi chiedono sempre, quando parlo in tedesco, se sono cecoslovacco, se sono ungherese, poi gli dico che sono italiano. Una volta mi ha chiesto se sono norvegese, sul rifugio Similão, ha detto no, sono italiano di Bolzano, e allora poi dice, però poteva studiarlo un po' meglio, però ci capiamo. E ecco, devo dire che sapendolo da cecoslovacco, quei contadini che hanno poche parole, e quindi io ho un vocabolario limitato, mi capisco molto molto bene, quindi, però lì, qui non c'è la foto di questa Hitten, parlavo con la signora Wolf Traud, la differenza tra Hitte e Hitten in dialetto della Val Aurina. Hitte è già una capanna coi tronchi, qualcosa che ha un senso di casa, di protezione e di civiltà, di vivere civile, anche se in quota. La Hitten è proprio una baracca di tipo Corvo Rosso non avrà il mio scalco, sono quelle cose di assiti malconce che devono passare l'inverno sotto metri e metri di neve, lì in quelle zone lì arrivano fino a 12-14 metri di neve, che poi si assesta e pesa, e prima di sciogliersi è un po' dura. Quasi quasi, io capisco quel contrabbandiere, è meglio farla d'inverno, perché quando è fredda, se non c'è proprio un eccesso di vento, non ci sono pericoli di valanghe, che non in primavera o d'estate, quando più molla e cade giù. Certo è che si viene una bufera, tant'è che quando diceva la signora De Concini degli ebrei che sono passati, in quel passo il Krimler Tower, il gioco degli Alti Tauri, si sono passati gli ebrei d'estate, la polizia italiana ha chiuso un occhio, gli americani vedevano di buon occhio che comandavano il salisburghese, li hanno lasciati andare, gli inglesi non volevano perché avevano il protettorato giù in Palestina, e gli ha creato poi tutti quei casini anche della nave, del film Exodus che viene descritto. Ma lì ci sono delle targhe che è morto un turista inglese, e sono morto un genitore con due bambini di 9 e 11 anni il 28 agosto, perché sono stati colpiti da una bufera improvvisa, erano vestiti leggeri e sono morti assiderati, quindi loro... E quindi i percorsi di montagna bisogna sempre stare attenti. Ecco, ultima, che per via del cuore, siccome ogni tanto è morto uno, si legge, no? Morto, poi vado a vedere sul giornale dell'epoca, è morto di infarto, è il cacciatore che è morto scivolato giù, lì è morto di valanga. Ce n'è una proprio sul confine, il Mitterjoch, sempre in Val Aurina, c'è una foto dove vedete un cippo e una croce. 50 metri prima c'è scritto che è morto poi il sindaco della Valle Aurina, nell'80, nel 92 non mi ricordo, e ho capito subito, dice, non è andato via, è solo un po' più avanti. Ho detto, siccome io ero stanco, ho detto che non vorrei andare avanti come lui, perché non è che mi consiglio. Allora sono stato lì, mi sono bevuto l'acqua, mi sono mangiato la mia albicocca secca e poi sono andato avanti. Però questi segni di morti fanno pensare e quindi fanno rallentare, perché presi. Quello che non capisco è che ogni tanto in zone più conosciute vedo c'è un'ammirazione, però così il 50% di questi giovani che certi corrono, non è che camminano, però non vedono niente, io non lo so. Van su in, una volta ho incontrato uno sciatore della squadra nazionale di sci italiana che andava su sul qua sopra Chiusa e lui correva su. Allora con la Vicky mi sono messo anch'io a correre su, ho tenuto 50 metri e poi sono schiantato. La Vicky continuava a correre indietro e poi finché gli ho fatto il fischio e si è fermata. E quindi va assaporata passo per passo. E poi io ho così una mente fotografica perché devo guardare, però guardo sempre dove metto i piedi e prima di guardare mi fermo, perché una volta me ne è successa che col vizio di guardare per fare le foto, la luce, questo o quell'altro, camminare in montagna, mi sono inciampato e sono andato sull'urlo e mi sono fermato poco prima, per fortuna. Ecco. Una bella vipera oltretutto. Quella vipera, ecco, quella è un bellissimo esemplare di, no, di vipera, di quella Kreuzotten, maschio, giovane. Per i maschi, a differenza della specie umana, dove le donne sono decisamente più belle, i maschi sono più belli perché hanno quel colore bianco scuro. Le femmine sono più grandi e poi si vedono di meno perché sono gialle e marrone. E mi fanno un po' impressione. Invece quello lì, però fischiava, l'ho un po' visto che siccome ho dovuto andare vicino lì, ho sudato un po' perché quell'obiettivo non si capisce mai, non le ho detto sorridi, ma è un bel... Quella foto che veniva dopo invece era, e l'ho fatta, l'ho messa nel libro, è quella di una cicogna, perché non ci dovrebbero stare le cicogne in una laterale della Valle Aurina, vuol dire che il clima sta cambiando, io capisco gli aironi cenerini, ma le cicogne, tant'è che quando l'ho fatta vedere hanno detto ma non è possibile, una mattina camminando la Vicky correva, bau bau, io non m'ero accorto, quella stava e si è alzata in volo e meno male che c'era l'ombra della roccia e il colpo di sole della che colpiva la cicogna, sono riuscito a fotografarla, ne ho fatte 5-6 di cui almeno 4 mosse, questa è una delle poche che mi è venuta abbastanza messa a fuoco, però è sintomo un po' del cambiamento del clima, se no le cicogne normalmente non ci dovrebbero essere a quelle quote. Grazie e buonasera. Ringrazio il dottor Caramaschi che oltre ad essere l'apprezzato city manager della nostra città ci ha fatto conoscere sicuramente alcuni aspetti del nostro paesaggio, ci ha invogliato, ma anche un lato della sua persona molto piacevole e molto intelligente. Grazie. Vedi, c'è schiacci e non succede niente.